Il povero burattino, fuori di sé dalla gran contentezza, ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo. «Noi non vogliamo regali!» risposero quei due malanni. «A noi basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica». E siamo contenti come Pasque. Ciò detto, salutarono Pinocchio e augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro.